1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:20 minuti in questo istante. Ben ritrovati, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. E di che parliamo invece oggi? Questo è il tema che affronteremo dalle 8:15 ed è questo: il reddito per tutti. Pensate che c'è una proposta che in Svizzera si sta facendo largo e potrebbe essere un'iniziativa popolare che grazie a una raccolta di firme potrebbe diventare realtà, vale a dire la proposta di un reddito di cittadinanza, un reddito per tutti i cittadini dalla nascita, che siano occupati, disoccupati, soprattutto per i disoccupati ovviamente. Una proposta al reddito di cittadinanza che anche in Italia è portata avanti soprattutto dal Movimento 5 Stelle e per la quale molti dicono: ma siete pazzi, è sbagliata, e poi con i conti pubblici che abbiamo è sicuramente una cosa insostenibile, visto che si è parlato molto di lavoro, si parla di lavoro. Ieri abbiamo parlato del salario degli italiani raccontando e raccogliendo le straordinarie vostre storie. Oggi vogliamo concentrarci su questa cosa molto concreta di cui si discute in Italia e non solo. Queste alle 8:15 saranno con noi il responsabile del comitato svizzero promotore dell'iniziativa di popolare federale per un reddito di base. Ci sarà con noi Michele Boldrin di Fare per fermare il declino. Ci sarà con noi il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Villarosa. A tra pochissimo. Adesso invece leggiamo i giornali che sono in edicola. È mercoledì 23 ottobre, i titoli intanto: Il Sole 24 Ore, la manovra sul 2014, più entrate e più spesa. Questo è il titolo di prima pagina, abbastanza incredibile nella sua verità, e cioè aumenta la spesa pubblica nel 2014. Per la verità 2015-2016 diminuirà, ma 2014 la spesa pubblica italiana, udite, aumenterà di 2,6 miliardi, un qualcosa che non si può credere. Il Corriere della Sera: divisi anche sull'antimafia, è la vicenda politica che divide molto. La Stampa, PD-PDL, scontro sull'antimafia. Il Giornale: oddio, ci ridanno la Bindi. Mentre Il Secolo XIX, Bindi all'antimafia, larghe intese a rischio. L'Unità: il partito di lotta continua, il PDL scatenato sull'elezione di Rosi Bindi. Il Manifesto mette la foto dell'antimafia col titolo Cosa Nostra. Mentre per Repubblica la vicenda degli spioni americani, diciamola così in maniera grezza, Letta agli Stati Uniti, la verità sul Datagate. Per Il Messaggero: pensioni congelate, ecco i conti. Mentre Il Fatto Quotidiano replica a Giorgio Napolitano, che aveva definito e ha definito ieri panzane le ipotesi proprio evidenziate dal Fatto di un possibile accordo per la grazia a Berlusconi. Le panzane di Napolitano, questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Libero invece: manovra sbagliata, case, cuneo, pensioni, prendi uno, paghi tre. Mentre per Avvenire il titolo di prima pagina è boss alla sbarra e lo Stato non c'è, assenti comune e governo a uno storico processo all'Andrina che rivuole i beni confiscati. Allora, vogliamo però partire da che cosa? Beh, due notizie di quelle che ci fanno riportare il vecchio mantra: mani sul volante, ce lo fa urlare nuovamente, mani sulle ginocchia se siete in treno, posizione tipo atterraggio d'emergenza, appoggiate le tazzine del caffè bollente, perché sto per darvi un paio di notizie legate al mondo della politica, i costi della politica che non ci faranno certamente piacere. La prima: Franco Bechis su Libero ha analizzato la manovra e che vuol dire per i costi della politica. La casta si regala 32 milioni di euro in più. Per carità, le cifre sono quisquiglie, 32 milioni rispetto al bilancio dello Stato, rispetto alla spesa pubblica che poi vedremo Il Sole dice aumenta, e lì si viaggia su quote di 800 miliardi, non milioni. Ma è una, come scrive Bechis, delle amare sorprese della legge di stabilità, e siamo a pagina 5 di Libero. Dopo anni di tagli, Tornano ad aumentare i costi della politica. 32 milioni di euro in più nel 2014, inseriti nella tabella del Ministero dell'Economia sotto i capitoli organi costituzionali e organi a rilevanza costituzionale. Aumentano di 6 milioni di euro le spese per Camera, Senato e Quirinale. Aumentano di 26 milioni di euro le spese per Corte dei Conti, TAR, Consiglio di Stato, CNEL, Consiglio Superiore della Magistratura. Sostanzialmente per tutte le spese o restano immutate rispetto al 2013 o lievitano. Due sole eccezioni. Il fondo spese elettorali, che scende di 380 mila euro quest'anno, portandosi a 91 milioni di euro per pagare elezioni europee ed eventuali rinnovi dei consigli regionali. Il secondo e ultimo a stringere la cinghia è il CNEL, che si vede ridurre la dotazione di 105 mila euro. Vabbè, davvero poca cosa, ma la recupererà con gli interessi nel 2016, quando salirà a 2,89 milioni di euro. E poi analizzati tutti in dettaglio, dopo anni di tagli aumentano di 6 milioni le spese per Camera, Senato e Quirinale. Ripeto, sono bassissime cifre rispetto ai miliardi della spesa pubblica, ma sono cifre che non ci fanno stare sulla sedia tranquilli, ci fanno tenere le mani sul volante. Se siete in macchina, anche e soprattutto quella che è la notizia, per la verità un po' controversa, che appare sui giornali ovunque: tutti i capogruppo della regione Emilia-Romagna sono indagati per l'ipotesi di peculato. L'ipotesi è spese loro, soldi nostri. Per la verità l'indagine dura da un anno, fanno sapere i giornali. Anche per esempio Luigi Spezia su Repubblica a pagina 17 e con richiamo in prima pagina, che in un anno di indagine tutti indagati, capigruppo indistinti, anche il Movimento 5 Stelle che dice noi rendiamo tutto trasparente, tutti indagati. In realtà questo anno di indagine non ha portato a contestazioni clamorose. Pensate che al capogruppo dell'Italia dei Valori Paolo Nanni hanno contestato anche di aver messo a rimborso spese un pacchetto di fazzoletti di carta. Sta di fatto che sembra un po' un'indagine così in sordina, però ora sono tutti indagati e quindi finiscono sui giornali. In testa il PDL con 87 mila euro di spese di rappresentanza, poi la Lega 43 mila euro, il PD con 23 mila. Il PD è invece primo per consulenze e collaborazioni, 164 mila euro. Questo nella regione Emilia-Romagna, quindi non cifre alla Francone Fiorito, ma cifre minime che però fanno titolare giornali: spese pazze, portaborse in regione Emilia, indagati tutti i capigruppo, così titola il Quotidiano Nazionale. Oppure su Libero ancora in Emilia, tutti indagati compreso il grillino. E vabbè, sta di fatto che questa è la notizia, chissà se porterà qualcosa a questa indagine, per la quale ripeto grandi cifre anche che fanno colore, tipo non so, le pecore comprate da un consigliere della regione sarda. E beh, queste cifre, questi anche acquisti non ci sono. Certo, tutto stride, questo dei costi della politica, se viene messo in relazione e in confronto alla vicenda che racconta il Corriere della Sera con Paolo Foschini, a pagina 23, anche qui c'è un richiamo in prima pagina del Corriere: le notti insonni del pensionato che trova e restituisce 7.000 euro. Volevo tenerli, ma mi tormentavano e così sono andato in caserma. Viene messa sotto la dizione Buone Notizie la storia di Luigi Musazzi, 78 anni, che ha trovato in un parcheggio a Nerviano, in provincia di Milano, un portafoglio abbandonato con dentro 7.000 euro. «Dormiamoci su», ha detto a sua moglie, che in effetti si è addormentata di botto, come sempre. Del resto, quando sei pensionata, con una casa da sbrigare, quattro nipotini a cui far da nonna la sera, non è che ti manchi il sonno. Solo che a lui il sonno non veniva. «Ci ho provato per due notti», racconta ora, «ma mi trovavo sempre lì, occhi aperti contro il soffitto, 7.000 euro in fondo a un cassetto, lo stesso pensiero piantato in testa, 7 volte la mia pensione, 14 volte la pensione di mia moglie, che faccio?» Finché ieri mattina ha deciso. È andato dai carabinieri coi soldi e ha detto: «Sentite, li ho trovati in un portafogli per terra, provate voi a rintracciare chi li ha persi». E loro l'hanno trovata la persona, una giovane svizzera che oggi è impegnata come un consulente d'impresa, ma che fino a qualche tempo fa era diventata anche notoria, perché si chiama Miriam Casanova ed è stata numero 85 al mondo del tennis, ha battuto anche Arancia Sanchez, ex campionessa del tennis, questo è stato il suo momento di gloria. E da ieri questa signora svizzera continua a ripetere grazie, grazie, ha dato il 10%, cioè 700 euro al pensionato che ha fatto questo gesto. Eccolo qui. Ritratto in foto, racconta le sue la storia. Ero tormentato 2 giorni, volevo tenermeli questi 7.000 euro, 10 volte la mia pensione, anzi 7 volte la mia pensione e 14 volte la pensione di mia moglie, ma poi alla fine li ho restituiti. Che ne pensate? Intanto andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle divisioni della politica sul nome Rosi Bindi e sulla legge di stabilità che fa scoprire questa nuova chicca. La spesa pubblica italiana l'anno prossimo aumenterà, aumenterà, incredibile. 24 mattino. Eccoci qui allora alle 7.34 minuti, io non ci volevo credere quando oggi ho detto il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, ma invece dovete crederci cari italiani, la spesa pubblica italiana, questa è l'analisi della legge finanziaria, aumenterà nel 2014 per 2,6 miliardi e anche le entrate aumenteranno per quasi 1 miliardo, la cifra precisa è di 972 milioni, ma come? Aumentano le entrate e nonostante ciò non si taglia la spesa pubblica? Bah! Misteri dello Stato italiano. In realtà le buone notizie, diciamo così, arriveranno nel 2015 e nel 2016, quando finalmente le spese, la spesa pubblica, cominceranno a calare. Nel 2015, secondo le previsioni, di 4,7 miliardi e nel 2016 di 6,7 miliardi, mentre le entrate caleranno di 495 milioni nel 2015, per poi risalire l'anno successivo di 1,1 miliardi. Questa è un'analisi che trovate sul Sole 24 Ore. I Davide Colombo e Marco Rogari poi tutti i dettagli li danno a pagina 3. Tutto ovviamente è un combinato disposto anche con la vicenda del nuovo commissario alla spending review, cioè il taglio alla spesa pubblica, Carlo Cottarelli, che tra l'altro fa sapere il Messaggero. Inizia proprio oggi il lavoro, dopo aver abbandonato il Fondo Monetario Italiano, da oggi il nuovo commissario Carlo Cottarelli è al lavoro, taglia la spesa nel mirino, che cosa? Acquisti, immobili ed enti pubblici. Ed eccolo qui, tre grandi direttrici, racconta Luca Cifoni sul Messaggero a pagina 4, tre grandi direttrici di marcia, acquisti, ridimensionamento delle strutture, ottimizzazione degli immobili e un metodo, quella della definizione di costi e fabbisogni standard. L'ex direttore del Dipartimento Finanza Pubblica del Fondo Monetario non si mette all'opera per produrre l'ennesima analisi della situazione, ma assicura al Messaggero per intervenire concretamente, seppure in modo graduale. Gli obiettivi sono 600 milioni di tagli nel 2015, 1,3 miliardi l'anno a partire dal 2016. Certo, ovviamente sono cifre date con cautela, diciamo, date dal Messaggero, anche se sui numeri nel Ministero dell'Economia al momento c'è grande prudenza, anche perché sapete che tra l'altro il tema è, con questa clausola di salvaguardia nella legge di stabilità, se non si taglia la spesa pubblica arriveranno, come racconta anche oggi il Sole 24 Ore, il taglio alle detrazioni fiscali, per esempio. Insomma, il mio slogan molto brutale è: se lor signori non riusciranno a tagliare, noi straccioni si toccherà pagare. Questo è il dato. È il dato di fatto. L'analisi, accanto al fatto che Carlo Cottarelli inizia oggi a fare il commissario della spending review sul Messaggero, continua con Michele Di Branco, con richiamo in prima pagina e poi l'analisi di questi 800 miliardi di spesa pubblica italiana. Per la verità sono 723 miliardi più 86 di interessi sul debito pubblico che vanno conteggiati a parte, insomma circa 800 miliardi di euro che, come abbiamo scoperto, insomma aumentano almeno l'anno prossimo di altri 2,76 miliardi. Evviva, saluto Mauro Meazza del Sole 24 Ore, viva Mauro Meazza, buongiorno, festeggiamo, buongiorno. La spesa pubblica oggi aumenta e siamo tutti... Sì, oggi ti sento particolarmente ferrato sui numeri, sì. Vuol dire che hai visto la nostra pagina 3 con, sì, tutti, certo, questi numeri, certo, che poi alla fine dicono una cosa sola, cioè che la spesa Sì, la tagliamo, ma più avanti. Per adesso cominciamo con un aumento di entrate, cioè, detto in italiano, cominciamo a incassare un po' di più dal punto di vista dello Stato. Su Cottarelli, scusami, volevo segnalarti, non so se l'hai fatto nella parte in cui non stavo ancora ascoltando, la lettera di Fabrizio Garimberti su Sole 24 Ore, che consiglia a Cottarelli, appunto, non faccia una guerra alla spesa, faccia una guerriglia, certo. Prenda dei casi esemplari e cominci ad agire su quelli per creare delle buone pratiche. Secondo modo. Me è giusto, perché il concetto è sempre come quando si dice le province, ma le province in fondo tagliare vuol dire tagliare una minima parte della spesa pubblica, tagliare una minima parte dei costi della politica. Sì, ma se diventano un paradigma, un emblema di qualcosa di intoccabile, forse si deve dare il segnale che si deve iniziare a togliere qualcosa, magari anche dei casi che non saranno la soluzione di tutto, ma danno l'idea che qualcosa si può fare di concreto o no? E questo è un po' tra le cose, appunto, che vengono consigliate da Fabrizio Garimberti oggi sul Sole. Ma hai visto che poi, a proposito di numeri, scusami, 50 decreti attuativi già previsti dalla legge di stabilità, cioè partiamo subito, ci vuole un decreto nei primi 10 giorni di entrata in vigore, lo deve fare l'istruzione. Io mi permetto di essere un po' scettico, insomma, questi mostri attuativi, poi, che si fa una fatica tremenda a contare anche da parte nostra, noi appunto li contiamo, verifichiamo che l'attuazione è sempre molto inferiore ai desideri del legislatore, come si dice in termini eleganti. E questo assolutamente. E poi ho visto un'altra lettera invece che mi incuriosiva, mi apprestava a leggere, quella di Carlo De Benedetti, sempre in prima pagina del Sole 24 Ore, che propone per il taglio al cuneo fiscale, questa famosa cifra che dà fastidio a Letta, 14 euro, ma che pare, scrive oggi il Fatto Quotidiano, sia nella relazione tecnica del, non proprio questa cifra 14, ma si evince questa cifra nella relazione tecnica della legge di stabilità. Cosa propone Carlo De Benedetti sul Sole? Una patrimoniale, che è un tema sempre dibattuto, la rilancia, per la verità, questa idea, una grande patrimoniale per abbattere il cuneo fiscale. Mauro? Sì, devo dire, cosa vuoi, sul dibattito sulla patrimoniale, sì, patrimoniale no, noi abbiamo visto già con il governo precedente a questo una specie di patrimoniale diffusa, si era detto, no? Quindi tassa sulle barche e così via. In fondo anche il possesso di immobili colpito dal Trise o la Trise, come chissà come la chiameremo, ha un po' un aspetto patrimoniale. Dopodiché, sai, questi dibattiti vanno avanti, sono un po' eterni, no? Un po' carsici, riemergono sempre senza una ricetta precisa. Ti posso segnalare un articoletto che magari non vedi perché sta un po' in fondo sul Sole 24 Ore, ma è birbantello, perché dunque il TAR del Lazio ha detto che la legge Severino si applica anche se uno è stato condannato nel 96, sì. E addirittura ha già scontato la pena, addirittura il reato si è estinto per buona condotta. Ah. E, insomma, sì, questi giudici amministrativi sono cattivelli, sono esigenti. Sono un po' cattivelli, chissà. E lo racconta Alessandro Galimberti nella sezione Norme e Tributi del Sole di oggi. E invece, scusami, chiudiamo con un numero, ti spiace? Sì. I tempi di pagamento per i farmaci, Farmindustria si è messa a fare un conto, ha detto vabbè, c'è una direttiva europea che dice che dovete pagarci in 60 giorni, ecco, questo accade solo per le ASL, appunto, che devono pagare le industrie solo nel 10% dei casi, siamo un po' lontani. Per il resto si va oltre, immagino che nel 90% non è che paghino prima. No, mi sa che paghino purtroppo dopo. No, ma paghiamo ben oltre i 60 giorni, molto oltre. Non c'è il numero ovviamente del risultato dell'Inter di Coppa ieri sul Sole 24 Ore, immagino, perché ma l'Inter questa passione in Coppa che tu hai per il calcio veramente mi sorprende, al di là del tuo cognome che giustamente lo merita, ma vabbè. Mi lascia sorpreso a quest'ora del mattino, che ti voglio sempre parlare di calcio. Va bene, grazie Mauro Meazza, dai, ci troviamo domani, buona giornata ovviamente. E appunto questa cifra di 14 euro che ha fatto arrabbiare Letta da Lilli Gruber, a dire questo sassolino me lo voglio togliere, 14 euro non è scritto da nessuna parte. Beh, Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano scrive: guardate che il cuneo da 14 euro è smentito Letta dal suo stesso governo, perché non ha letto evidentemente la relazione tecnica, dove all'articolo 6 della legge di stabilità c'è scritto Sotto la dicitura misure fiscali per il lavoro e le imprese vengono indicate le detrazioni rimodulate. Se per i redditi fino a 8.000 euro e per quelli superiori ai 55.000 non cambia nulla, per i redditi tra gli 8 e i 15.000 e tra i 15 e i 55.000 euro c'è il ritocco in questione, perché la detrazione massima viene innalzata da 1.338 a 1.520 euro. Si tratta di un incremento di 182 euro l'anno, dividendo la cifra per le 13 mensilità di cui si compone una normale busta paga, vengono fuori esattamente 14 euro senza trucchi né inganni. E dunque, scrive il Fatto, il Premier si lamenta per la cifra fasulla, ma è scritta nella relazione tecnica. E vabbè, in tutto questo la politica su cosa si divide? Rosi Bindi, presidente dell'antimafia, ha scatenato le ire del Popolo della Libertà, che dice: beh, ma quel nome non è un nome condiviso, e se c'è quel nome noi non partecipiamo più ai lavori della commissione antimafia, che da 8 mesi tra l'altro aspettava una nomina di un presidente. Si dimetta o disertiamo. Bindi all'antimafia, rivolta del PDL, questo è il titolo di pagina 8 della Stampa, con Marcello Sorgi che fa anche un profilo del personaggio della passionaria anti Silvio, che guarda ancora al Movimento 5 Stelle, cioè Rosi Bindi. E ancora il Corriere lo mette in prima pagina, e poi pagina 2-3, divisi anche sull'antimafia. Questo è il titolo. Alessandro Sallusti mette in prima pagina del Giornale questo commento duro sulla nomina di Rosi Bindi. Il titolo di prima pagina è: oddio, ci ridanno la Bindi, ci mancava pure il ritorno di Rosi Bindi a lietare le larghe intese, alla faccia degli accordi condivisi che dovevano essere alla base di questa legislatura. Rosi Bindi, presidente dell'antimafia, è peggio dello spread in quanto ha presa in giro, scrive Alessandro Sallusti, e il Giornale dedica pagina 2 un profilo per Rosi: la vita è tutta una poltrona. Sta di fatto che anche Alfano ha detto a Enrico Letta: il PD qui ha esagerato. E racconta in un retroscena il Corriere della Sera, pagina 3, la firma Francesco Verderami, che lo stesso Premier Letta è un po' contrariato per la mossa del suo stesso partito di scegliere un nome che spacca così in due le possibili larghe intese o le larghe intese. Per la verità, mentre la politica litiga su questo, suona molto alto il grido quasi di provocazione del procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, intervistato da Repubblica, da Concita Sannino, a pagina 10, che scrive: è un triste spettacolo della politica. Vengano qui a sostenerci, viene amarezza sentire ciò che accade a Roma. Sarebbe bello svegliarsi in un paese in cui leggi che la commissione antimafia si è insediata non dopo mesi di attesa ma subito, e che ha deciso di calare immediatamente al sud oppure di fare tappa in un nord inquinato da lendrine. Al di là delle inchieste vedo molta sofferenza da parte dei cittadini che credono nella legalità e nello Stato, ma vorrebbero cambiamenti più visibili e scelte concrete. Così il procuratore capo di Reggio Calabria, segugio silenzioso, colui che ha fatto il processo Spartacus da procuratore a Napoli, dice: insomma, la politica è immobile e il paese non si può consentire questo. E invece di litigare, invece di nominare subito il presidente, litigano appunto per mesi. Un triste spettacolo. Andiamo al traffico e poi rientriamo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Ed eccoci qua alle 7:48 minuti. Allora, intanto Giorgio Napolitano, il capo dello Stato, definisce ridicole panzane le accuse apparse sul Fatto Quotidiano del patto tradito di cui aveva parlato Daniela Santanchè, cioè il patto salvare in qualche modo Silvio Berlusconi da parte del Quirinale. E ridicole panzane questo patto sarebbero per il capo dello Stato, tanto che il Fatto Quotidiano oggi risponde in maniera molto dura: le ridicole panzane di Napolitano, è il titolo di prima pagina, no, ridicole no, è le panzane di Napolitano, è il titolo di prima pagina. E Daniela Santanchè su questo ritorna in un'intervista a Repubblica, a pagina 15, a dire: le larghe intese ormai sono un progetto fallito, scandisce Daniela Santanchè. Mentre non è fallito, ma certo è quasi vicino alla rottura, il progetto Scelta Civica, quello di Mario Monti, che litiga e ha molto da ridire sulle scelte politiche di Mario Mauro e Pier Ferdinando Casini. I cattolici andranno con Casini, Monti polemico, dice chi ci vuole svendere merita una reazione. Su questo tema vi segnalo un'intervista che Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera fa a pagina 10 e 11 all'ex ministro Elsa Fornero, che esordisce così: il modo in cui stanno trattando Monti è una vergogna, la riprova del cinismo della politica. Io avevo capito, pur non essendo esperta, che l'unico modo per difendere le riforme era stare fuori, entrare da tecnici e uscire da tecnici. Ho preso questa determinazione e accetto tutti o quasi gli inviti all'estero. Declino gran parte degli inviti in Italia, perché in Italia c'è una predilezione per le polemiche, mentre all'estero si guarda i contenuti. Sono appena andata 2 settimane in Germania a discutere delle nostre riforme, cose che fanno piacere perché gli stranieri hanno memoria nelle condizioni in cui versava il paese quando si insediò il nostro governo. Governo che tra l'altro Monti, che il ministro Fornero ancora difende, dice: abbiamo preso scelte dolorose, ricordate la prima pagina del Sole 24 Ore il 16 novembre 2011 col titolo a caratteri cubitali fate presto. Ecco, ora è facile parlare, ma la situazione era drammatica, occorreva uno shock. Comunque Monti, l'ho rivisto l'altro giorno al concerto del FAI, c'era anche la mia collega Severino, insieme l'abbiamo forse un po' rincuorato. Molti ci hanno rimproverato, ma molti rimproveri che ci hanno fatto sono frutto di faciloneria. Monti ha sempre detto di non aspettarsi gratitudine, ma almeno un po' di riconoscenza sì. E poi insomma Fornero difende anche le sue riforme, le riforme la questione degli esodati eccetera, comunque sul Corriere della Sera. Rapidamente, per dire che Veronica Lario è scontenta, non si fa, non si tagliano così gli assegni matrimoniali di mantenimento, sono scesi a 1,4 milioni di euro al mese, non si fa, ha fatto ricorso, vuole l'assegno di mantenimento pieno, 1,4 milioni di euro al mese non va bene, e quindi ha fatto ricorso. Poi una notizia di cronaca che mi ha molto colpito e sta molto colpendo l'opinione pubblica: dopo il caso della bimba di 4 anni biondissima trovata in un campo rom e si è accertato non appartenente per esame del DNA ai genitori che l'avevano con sé, c'è un altro caso in Irlanda, una bambina di 7 anni, praticamente un caso fotocopia, Dublino, un'altra Maria in casa di una coppia rom, 7 anni, è stata trovata dalla polizia grazie a una soffiata, è stata presa in consegna e ora vengono fatti gli esami. Patrizia Albanese ne parla sul Secolo XIX, ma anche il quotidiano nazionale: Maria comprata per 1000 euro dai rom in Grecia, il finto padre dice io non la volevo. 1000 euro, per 1000 euro questa cifra sarebbe stata comprata. E anche la Stampa: caso Maria si replica in Irlanda, indagini su una coppia con un'altra bimba bionda, coppia rom in Irlanda. E questo trovate sui giornali. Trovate anche Milan Leone. Questo oggi è arrivato la Gazzetta dello Sport. A volte arriva, spesso no. E questa volta è arrivata. Milan Leone, gran serata a San Siro. Finisce 1-1 tra Milan e Barcellona. Ha vinto anche il Napoli. Ma siamo al momento la carta costa. E oggi, per l'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo sul Fatto Quotidiano con Vincenzo Iurillo. Il titolo è ancora: la protagonista è Francesca Pascale. Non è lesbica, dice un ex fidanzato, quando stava con me andava con un sessantenne. Insomma, non era lesbica secondo questo, però la tradiva con un sessantenne. E Vincenzo Iurillo fa tutta un'analisi dell'ex fidanzato che dice andava con un sessantenne. Beh, a pensarci però io non ci potevo credere, però adesso sta con uno di 77 anni effettivamente. E allora chi potrebbe essere? Beh, l'uomo che l'ha lanciata, Ubaldo Tritone, ex consigliere circoscrizionale di Forza Italia, nella cui impresa Francesca Pascale lavorava e portava i caffè. Questo raccontano al Fatto Quotidiano. Lo chiamano Tritone quelli del Fatto Quotidiano. È lei il sessantenne con cui stava? E questo: ma io non parlo al telefono. E poi chi le ha dato il suo numero? Ma soprattutto chi se ne fotte, verrebbe da dire. Il Fatto Quotidiano oggi vince il premio La Carta Costa. Non lo sanno che la carta costa, non lo capiscono. giornale radio.